La storia di quattro indiani del Kerala mette in subbuglio l'India e insinua a Washington l'ennesima polemica. Proprio mentre in America cominciavano a circolare le prime fotografie su Abu Ghraib, Faisal, Mansul e i fratelli Abdulaziz raccontavano alla stampa indiana il loro inferno iracheno. Un inferno da manovali nelle cucine o nei cessi dei campi militari americani, dove assunti con la promessa di paghe stratosferiche si erano ritrovati a lavorare 18 ore al giorno per $50 la settimana. Umiliati e impauriti, allora avevano pensato di andarsene dall'Iraq, ma la risposta erano state botte fino alla fuga il 15 aprile scorso, corrompendo un autista iracheno che per $20 li porterà a Baghdad, da lì finalmente a casa. Capitolo minore, ma che getta luce sulla periferia di una guerra sempre più impopolare, la vicenda dei quattro indiani sembra coprire numeri piuttosto elevati. Si ipotizzano a centinaia, se non a migliaia, i connazionali arruolati con diverse mansioni. Gente che, abbagliata dal miraggio del soldo facile, si è poi ritrovata a fare, come hanno raccontato i fuggiaschi, una vita pietosa e miserabile in condizioni orribili nei campi militari americani in Iraq. Inglesi e britannici privilegiano gli indiani per diversi motivi: costano poco, parlano inglese, sono bene amati dagli iracheni e hanno spesso buona formazione militare. Alcuni vengono selezionati per i lavori più umili, gli altri, ex soldati, come addetti ai servizi, alla sicurezza o alla logistica. Gli stipendi fanno gola: $750 al mese per un ex soldato semplice, ma anche 3.000 per un alto grado. Bei soldi. E così il governo avrebbe chiuso un occhio, forse anche pensando alle rimesse. Adesso è polemica in India, mentre aumenta il gelo tra Delhi e Washington, che a gennaio aveva chiesto agli indiani l'invio, rifiutato, di 20.000 soldati in Iraq per dare una mano a una coalizione sempre più in difficoltà. Emanuele Giordana, Lettera 22, a Misnet.